Questo è il primo, vero? Buonasera a tutte le signore e signori, benvenuti. Iniziamo così oggi, 25 settembre, una nuova stagione di incontri organizzati dalla Biblioteca Provinciale all'insegna delle novità e del futuro. Ecco, non a caso il titolo scelto da questo libro è anche un po', lo consideriamo un portafortuna per la nostra nuova fase. Come sapete, la biblioteca dal 15 di settembre è aperta al pubblico qui, in questo stesso edificio. Durante l'estate abbiamo fatto un trasloco, abbiamo portato parecchi libri presso questa nuova sede, al piano terra, all'ingresso di via Marconi, ecco, quindi sempre in continuità con quelle che sono le attività del Centro Trevi, inizia, ha mosso i primi passi la biblioteca nella sua nuova veste di biblioteca provinciale presso il Centro Trevi. Siamo contenti di poter riprendere anche i nostri incontri settimanali, perché era una parte del nostro lavoro che ci mancava il contatto col pubblico, il contatto con i relatori, con le case editrici. È una linfa vitale per noi, sempre interessante, perché arrivano spunti, arrivano persone, ci mantiene insomma in contatto con quelle che sono le esigenze del pubblico. A questo proposito vi ricordo anche altri appuntamenti: le cartoline sono sulle sedie, da giovedì abbiamo un'altra presentazione di libri, il 2 ottobre ci ritroviamo sempre presso questa sede e via dicendo. Approfitto di questi momenti particolari di incontro per ricordarvi che abbiamo anche in mente appunto di portare avanti il progetto del premio Claudio Augusta. Se conoscete qualcuno che sta facendo una tesi o ha appena completato un percorso di studi e una tesi di interesse locale, noi raccogliamo questi documenti e non è previsto un premio di riconoscimento entro il 27 di ottobre per l'anno 2017. Infine, ma non per ultimo, ecco, volevo ringraziare i nostri ospiti che ci tengono a battesimo e quindi questa sera l'occasione viene fornita dall'ultimo libro che ha editato la casa editrice Praxis, diretta da Pinuccia Di Gesaro, che è qui con noi questa sera. Il titolo è appunto Futuro Alto Adige, l'autore è il professor Franco Valdessarelli, che è di origini meranesi ma da anni lavora, studia e appunto svolge la propria professione di avvocato oltre che di docente universitario presso la città di Parma. Abbiamo con noi però anche Claudio Calabrese, che collabora con la casa editrice Praxis, è un insegnante e a sua volta anche autore di numerosi libri. Con noi anche Giancarlo Riccio, che ci accompagna spesso nelle nostre presentazioni, è un valido aiuto e collaboratore nei percorsi che scegliamo e che hanno come tema l'Alto Adige e soprattutto l'aspetto più attuale dell'Alto Adige. Non mi dilungo oltre, vi ringrazio della vostra presenza e ricordo anche che questo libro, come vedrete spesso anche negli inviti che facciamo, è frutto anche di una collaborazione. Qui vedo anche la nostra collega Lucia Piva con l'ufficio della ripartizione, che si occupa della promozione degli autori e delle case editrici locali. Quindi abbiamo dall'anno scorso suggellato una collaborazione sia con la ripartizione che con le stesse case editrici, che ci propongono gli iscritti, i documenti, le pubblicazioni, e noi facciamo questo percorso insieme a loro. Grazie e buona serata a tutti. Innanzitutto io voglio fare qualche ringraziamento, perché è giusto che vengano fatti. Vorrei ringraziare innanzitutto la Praxis, la persona della professoressa De Gesaro e Carlo Calabrese, che hanno voluto e ha consentito a che questo libro venisse pubblicato. Volevo ringraziare la Biblioteca Claudio Augusta per l'ospitalità, che diventa ancora più importante visto che siamo anche in fase di battesimo, e volevo ringraziare tutte le persone che sono qua, vedo molte facce amiche, compagni di classe, compagni di liceo maranesi e altre facce che non conosco, che le dimostrano amiche lo stesso, perché se no non sarebbero qua, e quindi voglio ringraziare tutti. Io sono l'avvocato Franco Valdessarelli, nella vita faccio l'avvocato come scrittore, questo è un libro che ho scritto, ho voluto scrivere, adesso vi dico anche perché. Scrivo ogni tanto perché collaboro a vario titolo da molti anni con il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Parma, in particolare con l'Istituto di Storia del Diritto Romano e ultimamente anche con la scuola di specializzazione per le professioni legali sempre del Dipartimento. Non sono professore perché in questo ambiente bisogna soppesare bene le parole, sono docente ma non professore, quindi insomma giusto questo inciso. Quindi questi sono i ringraziamenti. Perché ho scritto questo libro? Questo libro l'ho scritto perché chi mi conosce sa che, pur vivendo io a Parma da 35 anni, sono molto attaccato alla mia terra, chi mi conosce sa che vengo spesso, volentieri, ho ricucito ultimamente i rapporti con i miei amici del liceo e la cosa mi fa molto piacere. Ho scritto questo libro anche perché mi gratifica molto la materia del diritto e l'aspetto, diciamo, costituzionale relativo alla configurazione, allo sviluppo di questo nuovo statuto, offre lo spunto per molte riflessioni e anche per diverse, diciamo, valutazioni anche tecniche che mi appassionano. Il terzo motivo è anche l'aspetto politico, perché in questo scenario, diciamo, politico italiano, dove io personalmente non vedo una gran luce, mi sono detto, beh, insomma, valutiamo un attimo a livello locale la politica cosa ha fatto e spulciando qua e là dei dati, diciamo, tecnici, ho avuto la conferma di quello che già pensavo, cioè che la politica in Alto Adige, che piaccia o no, funziona perfettamente. Chi sostiene il contrario forse non sa bene quello che succede nel resto d'Italia. Io ho la possibilità per lavoro e per turismo di girare in molte altre regioni e devo dire che le cose come funzionano qua ancora non funzionano, e quindi mi sono determinato a fare questo libro che dal punto di vista tecnico, diciamo, in maniera scorrevole ha cercato di attingere anche dati a destra e a sinistra infarcendo le pagine proprio per far sì che, insomma, ci sia anche un sostegno tecnico a chi sostiene quanto appena detto. Quindi, diciamo, questi sono i tre motivi che mi hanno spinto a fare questo libro: motivo d'affetto, motivo di cultura generale, tecnica, e motivi anche politici. Politico è l'ultimo, di quella verità. Come si struttura questo libro? Questo è un libro snello, nel senso che è un libro di ci sono 80 pagine mie e altre 20 che sono del professor Calabrese che ha seguito le interviste, e quindi è in fondo un centinaio di pagine. Però quello che io penso, siccome anche nel mio mestiere ho capito che non conviene parlare troppo e scrivere troppo perché il rischio di non venire letti e tantomeno a volte di venire ascoltati, è bene sempre ridurre, diciamo, al minimo le cose che si vogliono dire, e penso di esserci riuscito. In una prima parte ho percorso i passi salienti della storia dell'Alto Adige, e questo mi ha consentito un po' di tornare indietro quando nelle scuole ci davano conosci la tua provincia, chi è l'età se lo ricorda, per questo è un anno della provincia, eccetera eccetera, e nello stesso tempo, diciamo, la seconda parte proprio tratta di questi aspetti tecnici, come dicevo prima, che hanno supportato un po' la mia passione politica in questo periodo qua per la politica antitesina. La terza parte è quella che riguarda il terzo statuto, che questo è veramente un'incognita, perché il terzo statuto, con tutti i buoni propositi di partenza, da quanto ho capito, insomma, non ha preso una piega che era quella che forse tutti si aspettavano. La riforma costituzionale con la clausola di salvaguardia è saltata, e quindi, diciamo, forse anche il terzo statuto ha avuto un contraccolpo. Fatto sta che mi sembra, insomma, che ultimamente le cose non vanno per il verso giusto, perché doveva uscire una bozza di statuto unica, ne sono uscite quattro, quindi questo mi viene mi fa pensare che, insomma, tutto questo, diciamo, univocità nel voler fare una cosa non ci sia stata. Non so perché la cosa non sia andata in porto, questo non lo so, perché poi tra l'altro la bozza di statuto è di ieri, quella che è passata in provincia, quindi esattamente non so neanche quello che poi dopo sia stato partorito. Di certo i lavori non sono andati secondo me come dovevano andare. Ci sono state le due premesse che hanno dato un taglio, secondo me, quello sull'autodeterminazione, quello sull'abolizione del commissario del governo, che poi è perfetto, altrove, è quello della radice cristiana dello statuto, che insomma secondo me hanno tirato il freno a mano su questo statuto e quindi non si sa come andrà a finire. Io personalmente non avrei toccato il secondo, nel senso che il secondo secondo me è un capolavoro dal punto di vista tecnico, giuridico, costituzionale, quindi io non sarei andato a canto nemmeno di una virgola del secondo. L'hanno voluto fare, cioè fare, adesso è una parola grossa fare perché sono agli itinere, quindi ancora non hanno fatto niente, però diciamo non sarei andato a canto, secondo me lasciato il quadro come stanno. Se poi dopo c'è da modificare singoli articoli, l'avrei fatto una alla volta, come diciamo si fa negli statuti anche delle società, eccetera, cioè non si cambia tutto il blocco, uno statuto. E quindi diciamo questo diciamo è il contenuto di questo libro, che praticamente penso che sia leggibile in maniera snella, semplice, lineare, senza pedaldirsi, e vede un po' quello che è il punto di vista dell'autore, cioè mio. Ecco, questo per il momento è diciamo l'impostazione del libro, e lascio la parola, non so, a Claudio Calabrese se vuol dire qualcosa anche lui, oppure alla stampa. C'era Pitto, buonasera, ringrazio l'autore perché ha risposto a quelle quattro domande, no, a tutte no, non si illuda, soltanto un pezzettino, ma devo dire ha risposto in modo interessante ad alcune delle domande che uno di voi o un giornalista potrebbe porvi, quindi siamo partiti bene. Io vorrei fare però un piccolo e veloce passo indietro, ringraziando chi ci ospita, anche a nome degli altri che sono accanto a me a questo tavolo, aggiungendo una piccola postilla. Quando un po' di giorni fa c'è stata la reinaugurazione di questo posto e abbiamo registrato delle riflessioni, devo dire, molto interessanti da parte dei protagonisti, sia a livello di istruzione provinciale che a livello di direzione di biblioteca, ebbene abbiamo un pochino sui giornali, soprattutto su altri direi, ma anche sul mio, cioè sulle edizioni locali del Corriere della Sera, trascurato quello che è il lavoro dell'Ordine Trevisani e dei suoi colleghi bibliotecari, che devo dire che stanno facendo delle cose pazzesche. Io ho partecipato l'altro giorno a una riunione della lettura, che credo come voi sappiate è l'inserto settimanale culturale del Corriere su cui scrivo regolarmente. Ho raccontato questa cosa, i colleghi scherzando, prima di andare a cena intorno comunque Solferino, quindi Brera, mi toccavano dicendo: ma tu vieni davvero da Marte, tu vieni davvero, mi prendevano qui in giro, però era come se io avessi raccontato, a proposito di quanto ci ha cominciato a raccontare l'autore, qualcosa che avessi raccontato anch'io, qualcosa della nostra autonomia, cioè del nostro modo di gestire il buon governo e di potenziare, difendere, tutelare la res pubblica. Lo dico perché siete tutti strabenvenuti, sono contento che l'autore Claudio, Pinuccia, siano salutati da molte persone. Tra voi ci sono alcune presenze istituzionali che io considero molto importanti, perché utili al dibattito, non certo perché hanno dei ruoli ufficiali, però insomma ecco, sono tutte persone con le quali sarà un piacere dialogare, e dialogare anche sul piano dei rapporti tra questa struttura, i libri e il territorio, che ha bisogno di impulsi nuovi. Il libro. Beh, i libri restano, cari amiche e cari amici, i libri restano, il tema affrontato da numerosi studiosi, inciso, vi porto i saluti del senatore Palermo, con cui ho parlato del futuro elettorale, neanche sotto tortura vi dirò quello che mi ha detto, anche perché lo scriverò con tutta calma questa cosa, e vi porto anche le sue scuse all'autore, alla signora di Cesaro, alla dottoressa Trevisan, ma non c'è riuscito. I libri restano, dicevo, ed è importante che di questa materia che dibatteremo stasera e che abbiamo cominciato a conoscere un po' meglio grazie all'introduzione del suo autore, rimangano e siano dei punti fermi in un dibattito e in un meccanismo della comunicazione, come quello voi sappiate, talmente confuso che quando nei giornali si decide di parlare di questi temi, non dico che ci si nasconda sotto le scrivanie, poi però farei un po' fatica nonostante stia facendo una cura dimagrante, ma insomma c'è chi davvero fischiettando guadagna l'uscita, perché la visibilità che dà sui giornali occuparsi di queste cose è tale. Nei giornali uno dei motivi per cui facciamo questo mestiere è quello di avere anche lasciare delle tracce del proprio io, eccetera. Allora perché? Perché è un problema molto spinoso, molto aperto, sia nel senso buono ma anche nel senso della sua permeabilità. È bastato che un collega che io stimo molto, che conosco da tanti anni, che frequentavo a Roma anche come amico personale, come Enrico Mentana, l'altro giorno in un'iniziativa importante dicesse: basta con l'autonomia, che differenza c'è tra uno di Trento, di Bolzano e uno di Padova, o altre cose. Risposte dei politici che hanno alzato il dito dicendo: è Mentana, però lei. È bastato che un giornalista, tanto fuori dal coro, di cui possiamo condividere o meno le opinioni, sollevasse di nuovo il coperchio di questo pentolone e di nuovo abbiamo cominciato a porci domande e anche a confessare qualche smarrimento rispetto alla storia dell'autonomia. Quindi che ci siano dei punti fermi come questa serata e come alcuni libri, buon ultimo e auguriamo molto successo all'autore e quello di questa sera, è già un problema, è in qualche modo superabile. I rapporti tra politica e comunicazione, che sono poi quello che mi toccherà in pochissimi minuti approfondire, salvo poi tornare dopo e comunque lasciando molto spazio ovviamente ai presenti. La politica in questo caso sta giocando un ruolo bizzarro o forse prevedibile. Ogni partito sta già pensando, come è ovvio e come mi preoccuperei del contrario, alle prossime elezioni, sia locali che nazionali. Se voi parlate con gli esponenti dei principali partiti, essi vi parleranno del ponte sul fiume o della facciata di un museo, ma poi a telecamere spente, a microfono spento, vi prenderanno sotto braccio o meno, io preferisco di no perché i ruoli devono essere ben definiti e il mio giornale ha un codice di comportamento ben preciso, e bene, costoro, per il mio braccetto o meno, vi cominceranno a parlare di candidature. Questa è peraltro la prima domanda che vorrei rivolgere all'autore, cioè che mi sembra abbia già lambito in più momenti nel suo saggio questo tema, cioè i rapporti tra l'autonomia così come è stata elaborata da giuristi ma anche politici, come si rapporta con la politica dei vari dei. Questa è la domanda a cui vorrei che Valessarelli rispondesse. L'altra cosa che mi sembra che vada a credito e a merito di questo libro è il fatto che questo libro, vedevo anche altre pubblicazioni qui, c'è un librone proprio di Francesco di Palermo, ci sono altre cose, intercetta il nostro Zeitgeist. Siccome un libro non è soltanto un saggio, sia pure come in questo caso interessante, se un libro coglie l'aria che tira, riesce ad attirare l'attenzione, è un libro riuscito. Se è un libro che invece che rimane un po' nello scaffale, uno magari lo acquista, uno magari lo comincia a leggere, poi lo lascia lì oppure se lo porta sotto braccio, beh, allora il suo viaggio sarà molto più impervio e magari finirà presto. Quindi questa è un'altra cosa che va detta. Ultima cosa, almeno per ora, il rapporto di questi temi, come quelli affrontati dal libro di Baldessarelli, e l'editoria. Io credo che gli editori che si occupano di questi temi, direi prevalentemente, ma avremo delle sorprese l'anno prossimo, non fatemi dire di più, sono editori cosiddetti locali, che non è un demerito, è una constatazione, ma che hanno a cui dovremmo dire grazie. E sapete perché? Perché questi libri e questi editori, che sono spesso persone che insomma molto appassionate eccetera, sono i nostri interlocutori. Cioè, quando noi prendiamo un libro pensiamo che il libro sia dell'autore, e tutto sommato non sbagliamo. E se fosse anche del curatore del libro, e se fosse anche della persona che ha studiato e corretto i testi, e parlo per esperienza personale, e se fosse anche di chi ha curato altri aspetti del libro, io non credo che gli editori siano tutti uguali. Ce ne sono di pessimi che stampano cose terribili, spesso a pagamento, che mi sembra una cosa triste più che sbagliata. Ma l'editoria locale, non a caso supportata dalle istituzioni con molta severità, giustamente con molta serenità, selezionando molto, non dando contributi a chiunque, è un'editoria matura, e anche questo è un pezzetto di autonomia. Ma scusandomi con Claudio se mi chiedo 5 minuti di pazienza, vorrei prima che l'autore, se crede, se no glielo richiedo finché non risponde, sono abituato a insistere, mi pagano per questo. Una domanda raffica. No, una sola, per adesso. Allora, questo, che rapporto c'è tra il tema così complesso ma non noioso e abbastanza stimolante del tuo saggio e la politica? Ma la politica, come ho detto prima, è il terzo, diciamo, impulso che ho avuto per scrivere questo libro, quindi non c'è nessun rapporto tra questo libro e la politica, diciamo, o meglio tra l'autore e la politica. Non c'è nessun rapporto tra il libro e il microfono. Non sono abituato a parlare al microfono, in genere parlo anche ai miei studenti senza microfono. Comunque, tra l'autore e la politica non c'è nessun rapporto, nel senso che comunque non sono inquadrato in nessun movimento politico, e capisco che il libro possa, diciamo, far piacere a una parte della politica, però non è stato scritto per questo, anche perché poi vivendo fuori non ho neanche nessun interesse. Addirittura è stato consegnato dei politici che praticamente erano, diciamo, facenti parte di quella parte che il libro poi li apprezza, e non hanno neanche, diciamo, ringraziato. Quindi voglio dire, proprio il rapporto tra l'autore e la politica non c'è. Tra il libro e la politica il rapporto c'è, perché il rapporto tra il libro e la politica c'è, perché è un tributo, diciamo, ai politici locali, ma non a quelli di adesso, quelli di ieri, dell'altro ieri, eccetera. Certo che c'è un rapporto tra il libro e la politica, perché ripercorrendo i passi dello statuto del 40, quello del 48, quello del 72, eccetera, eccetera, c'è tutto il lavoro politico sotto di Magnago e anche di Turbata, devo dirlo, che è ottimale. Quindi, diciamo, tanto di cappello a questi due politici, c'è poco da fare. E quindi, dal punto di vista del rapporto tra il libro e la politica, c'è, nel senso che comunque è un ringraziamento per il lavoro che è stato fatto, anche perché, ripeto, nello scenario nazionale altri politici che si sono dati da fare come questi io non ne ho mai visti ultimamente, e neanche forse in epoca passata. Quindi sicuramente c'è un merito di questi politici qua, sia di quelli delle scope sia dei politici italiani di Roma, che hanno, diciamo, sostenuto questa politica. È vero che negli anni passati c'era il pentapartito, le scope aveva, diciamo, un potere politico a Roma pesante, quindi eccetera, però, diciamo, ci sono stati dei politici sia tedeschi che italiani che hanno visto lontano, perché questo statuto, che praticamente è un lavoro ventennale, trentennale, è stato fatto grazie ai politici di ambo le parti, che hanno visto bene, hanno visto lontano. Abbiamo sotto gli occhi, abbiamo l'esempio della Scozia, della Catalogna, di tantissime altre parti d'Europa che non riescono a concretizzare quello che è stato fatto qua. La Catalogna è come l'Italia degli anni 50, il governo centrale tira il freno a mano e questi vogliono assolutamente l'autonomia. Da noi invece pian pianino sono riusciti a fare tutto quello che è stato fatto con i risultati adesso. Lo statuto è blindato da una legge costituzionale, quindi, come tutti sanno, oppure se non lo sanno, è, diciamo, blindato, nel senso che non è toccabile, o meglio, è toccabile con delle percentuali talmente alte che verosimilmente non verrà toccato mai, e questo è un altro motivo per cui io mi chiedo perché a tutti i costi si è voluto fare questo terzo statuto, perché il lavoro politico di questi 70 anni dalla Comune di Parigi ad oggi, diciamo, è stato un lavoro, secondo me, esemplare, e quindi sicuramente, diciamo, dal punto di vista giuridico, tecnico e normativo, secondo me non ci sono più potenze nel giro dell'acqua. Io non conosco, almeno autonomie come questa nel giro per il mondo non ho mai sentite, poi non so, magari ci saranno qualche isola sperduta, non so, però la politica in questo caso si è comportata benissimo e non mi nascondo, non faccio fatica a dirlo. Non so se ti ho risposto in maniera soddisfacente. Direi di sì. Carlo, funziona? Si sente? Sì. Prima di tutto, anche a parte mia, buonasera. Io ringrazio i vari signori che sono venuti questa sera. Ringrazio Marco Palesarelli per aver accettato di essere il nostro autore. Ringrazio il carissimo Giancarlo Riccio, che permette oggi di essere qui al tavolo assieme a lui, di essere qui relatore, e naturalmente io ringrazio Pinuccia, e dovrei ringraziare pubblicamente Pinuccia di Gesaro, perché io senza Pinuccia non sarei qui e non sarei assolutamente, insomma, non sarei, io sono coautore, insomma, comunque estensore delle interviste di questo libro, ma non farei anche, diciamo, l'editore con Pinuccia. Io quello che so fare nel mondo dell'editoria oggi, dopo diversi anni, adesso, cioè, circa 10 anni che lavoro con la Praxis, ecco, lo so fare grazie a Pinuccia. Pertanto un applauso per Pinuccia. La quale vorrei aggiungere, ha corretto anche tutte le cose del libro e ha curato anche la parte finale dove ci sono tutti i nomi dei protagonisti, della politica, della storia, che gli avevo anche suggerito di mettere il suo nome, lei mi ha detto no, non lo voglio mettere, insomma. Quindi, diciamo, la parte finale con lavoraggio di andare a ricercare tutte le biografie di tutti i personaggi l'ha fatto lei, quindi, diciamo, doppio merito alla fiducia. È il mio lavoro! Si è appena ripreso, diciamola tutta. Vorrei scusare il sindaco dottor Caramaschi, l'onorevole Michele Ebner, l'assessore Florian Musner, la dottoressa Laura Polognoli, che tra l'altro con Riccardo Dello Sbarba sono firmatari della quarta relazione di minoranza della Convenzione del 33, e tra l'altro è anche vicepresidente della Convenzione, che hanno ricevuto il nostro invito, hanno ringraziato ma non possono. Quindi noi veramente ci ringraziamo e vorrei passare e vorrei prendere spunto da quello che dice Franco. Tu hai citato prima autodeterminazione in riferimento alla questione più spinosa che tra l'altro è stata anche discussa recentemente, nuovamente, eccetera. Beh, ho molte perplessità in merito, ma ho anche qualche perplessità circa il fatto o l'idea che non sia necessario modificare questo secondo statuto. No, se proprio, sinceramente sì, senz'altro è un buon statuto con un ottimo impianto, ma come tra l'altro ho anche potuto apprendere dall'intervista che ha rilasciato il professor Palermo, la lingua dello statuto e diversi argomenti, questioni tra l'altro anche di carattere internazionale e europeo sono cambiate. Il rapporto tra l'altro fra l'Alto Adige con l'Unione Europea e eventuali anche rapporti futuri da regolamentare diversamente, assolutamente nel 72 non ci sono stati. La realtà che è cambiata, è mutata rispetto ad oggi. Quindi solo con una modifica allo statuto questo si potrebbe eventualmente regolare, altrimenti insomma, regolare su un articolo, comunque modificare su un articolo, due articoli, non so, potrebbe essere alquanto complicato. C'è la questione della regione. Da ormai da diversi anni sappiamo che la regione ha pochissime competenze in materia legislativa. È vero, abrogarla sarà quanto difficile perché è prevista la Costituzione stessa e i limiti della politica sono all'interno della Costituzione. Sì, possiamo ben modificare, potremmo modificare la Costituzione, ma sarà molto difficile modificare. Sappiamo quanto è difficile modificare la Costituzione italiana e pertanto anche il linguaggio, come poi vedremo con il discorso dell'autodeterminazione, no? Sostenere che ma l'autodeterminazione interna di fatto non è autodeterminazione ma è una sorta di autonomia integrale, insomma, a un certo punto non credo che si possa definire così, insomma anche le parole hanno un significato, l'italiano è italiano, insomma, quindi a un certo punto sì, possiamo vederlo come un'ermeneutica diversa, ma autodeterminazione comunque significa quello che significa. C'è la questione della lingua e soprattutto delle scuole. L'esigenza della scuola negli anni 70, benché anche già nel 79 a Merano ci fosse stato un primo tentativo di scambio linguistico fra i licei scientifici, con due licei scientifici, ecco benissimo, chiaramente poi bloccato, interrotto dalle massime vertici. Però ovviamente non è servito a nulla, quindi già allora c'è stato questa volontà, questo interesse di portare avanti insomma, un interscambio tra i gruppi e quindi di promuovere queste scuole bilingue o comunque dare la possibilità, perché poi l'articolo 19, come tra l'altro io imparai molto bene, non tanto l'università quanto la legislazione scolastica, e oggi è un onore di salutare anche il dottor Bidoni che ai nostri ospiti, che io saluto ancora una volta, non sei dottore, no? L'articolo 19 non è che limiti questa cosa, cioè aggiungere la possibilità di studiare non è assolutamente possibile, noi possiamo benissimo aggiungere, potete non togliere la possibilità di studiare nella propria madrelingua, ma aggiungere, l'articolo 19 lo impedisce, pertanto noi si sarebbe comunque da discutere, ma se io ho letto le relazioni sia della maggioranza che di minoranza, non è tanto facile. Soprattutto la maggioranza non sembra assolutamente orientata a toccare niente in questo senso. Quindi se tu la vedi da questo punto di vista, che siccome la maggioranza non è molto interessata a fare chissà quale modifica, tranne quelle modifiche poco, insomma, modifiche per quanto discutibili come la questione dell'autodeterminazione piuttosto che il Consiglio del Governo che poi in sé dal 2001 ha le competenze chiare, beh, effettivamente però bisogna vedere. Ultimo punto che vorrei ancora toccare, poi lascerò la parola giustamente al collega, è proprio il fatto di aver deciso di aver optato per un aggiornamento dell'autonomia senza ricorrere alla politica in senso stretto, no? Cioè senza ricorrere subito al consiglio provinciale piuttosto che al consiglio regionale, ma quindi questo passaggio a questa forma di democrazia diretta, perché no? Può essere criticabile, ma comunque elaborare un testo, come giustamente è stato l'intento anche del professor Palermo e di altri, che chiede alla popolazione, secondo me non è sbagliato, non è assolutamente sbagliato, perché in sé il testo che è stato adesso arrivato con le varie relazioni di minoranza sono delle proposte. Poi è chiaro che il Consiglio Provinciale di Bolzano e Trento dovranno trovare un'intesa, dovranno arrivare con l'intesa, poi bisogna vedere come, se effettivamente ci vorranno altri tecnici in Consiglio regionale, e poi bisogna vedere quale sarà il testo definitivo da portare a Roma. Comunque, in sé l'idea o la consapevolezza di modificare comunque questo testo di legge costituzionale, secondo me, almeno prende in considerazione, assolutamente, lo è. Cioè Carlo, io passerei la parola a te, e ovviamente per chiedere. Grazie, farò un paio di domande veloci all'autore, perché vorrei poi, sicuramente tutti e tre siamo d'accordo, dare la parola a voi. Prima vorrei sottolineare un paio di cose che Franco ci ha detto. La prima riguarda l'unicità di questo secondo statuto. Come credo sappiate un po' tutti, anni fa la ricerca di una università americana, nordamericana, di cui poi mi sono occupato sul mio giornale, ha confermato che l'amministrazione Obama, sapete, quello abbronzato, come direbbe qualcuno, no? Che è stato presidente degli Stati Uniti fino a pochi mesi fa, nel secondo mandato, all'inizio del secondo mandato, si è preso i documenti dell'autonomia in Alto Adige e hanno cominciato, e una serie di funzionari della Casa Bianca hanno cominciato a studiarla, a studiare moltissimo, e hanno cominciato a dire che alcune aree del mondo, ma quelle proprio pacifiche, che ne so, il Medio Oriente, che ne so, l'Afghanistan, in tempi più moderni le due Coree, quindi posti, no, come, dove tutti vanno d'amore d'accordo, come sapete, avrebbero avuto un grande aiuto teorico, non ideologico, ma teorico, politico, istituzionale, dai cardini del secondo statuto di autonomia in Alto Adige e Sud Tirolo. Questo credo che sia un elemento molto emblematico anche del fatto che, come direbbe il mio carissimo amico e collega Tommy Visentini, dobbiamo diffidare e mai pensare che non siamo un pericolo nel mondo. In questo caso quello che succede dalle nostre parti è una cosa che può interessare e può attirare e che può attirare l'attenzione e la curiosità anche istituzionale di altre amministrazioni, e questo è una cosa diversa, come sicuramente Franco sa bene, ma non solo lui, dal parlare delle altre autonomie in Europa, che sono un'altra roba, assolutamente un'altra roba, anche se anche questa va ovviamente studiata nel mondo. Quindi il fatto che la penultima amministrazione degli Stati Uniti d'America abbia affrontato e discusso questa cosa in collaborazione con una delle più importanti università nordamericane la dice lunga. L'altra cosa, che è poi la domanda, una delle due domande che mi permetto di rivolgere all'autore: quando è cominciato, un po' di mesi fa, un anno, adesso non ricordo bene, chiedo scusa, il lavoro sul terzo statuto, come qualcuno ricorderà, e qualcuno magari c'era, è stato anche protagonista, sono nate una serie di commissioni. E queste commissioni nascevano da delle occasioni assembleari anche abbastanza giocose, con i palloncini colorati, la possibilità di parlare tedesco con i tedeschi, italiano con gli italiani e così via. Poi ci si riuniva in sottocommissioni, uno si occupava di cultura, l'altro di sport, l'altro di altre cose, eccetera. All'inizio c'era un entusiasmo molto marcato. Quando ricordo di aver intervistato numerosi politici, che erano molto contenti, che non potevano non esserlo, perché era un'occasione anche di visibilità per loro, oltretutto, oltre che mettersi un pochino in gioco. Piano piano questa cosa è sfarinata in un bailam non bello, giornalisticamente interessante, ma dal punto di vista, come dire, dell'elaborazione di cose nuove, abbastanza povero. Quindi credo che questo, come ha titolato un quotidiano, il secondo statuto non ha uguali al mondo, proprio occupandosi del libro di Baldessarelli. Ma quindi tutto quello che è successo di recente intorno al terzo statuto non ha funzionato? E questa è la domanda, primo. Secondo, ma allora perché voi non politici, nel senso felice del termine, non avete alzato la voce un po' prima per fermare questo? Perché nessuno ce l'ha chiesto. Certo, questa è una... No, adesso ho capito la domanda. Spero, adesso vado un po' a memoria, perché vedo i miei interlocutori che sono molto più diligenti di me, hanno appunti, fogli. Io purtroppo sono sempre, abituato ad andare un po' a braccio, quindi spero di ricordarmi i vari passaggi. Allora, per quanto riguarda l'autodeterminazione, secondo me è stato un scivolone, no? Perché l'autodeterminazione, al di là del fatto che l'articolo, vedo tra l'altro anche qualche collega allungato tra il pubblico che quindi riesce a captare meglio questi pensieri. L'autodeterminazione è che mi sembra che sia stato adesso inserito nella bozza, giusto? Ecco, quello è stato uno scivolone, perché primo è un'abnormità, adesso non stiamo neanche a dire se è giusto o sbagliato, è un'abnormità giuridica, è rasenta l'inesistenza. Cioè, nella nostra Costituzione, l'articolo 5 dice che l'Italia è una e indivisibile, già stoppa questa autodeterminazione. Quindi io non so neanche perché abbiano messo questa parola dentro. È vero, dicono che c'è nello statuto del Vescovo, io non l'ho mai letto, però una cosa è lo statuto del partito, una cosa è uno statuto provinciale. Comunque l'autodeterminazione non passa, non passerà mai, quindi è come dire camminiamo sull'acqua, no? Non capisco perché l'hanno messo. È stato detto che l'autodeterminazione è un'autonomia integrale, non è vero, perché l'autonomia integrale è un'autonomia che viene concessa dal Parlamento con legge costituzionale. L'autodeterminazione è una cosa che si prende, quindi già qua sono due cose diverse. L'autonomia integrale può stare benissimo, non vedo perché, non c'è scandalo nell'autonomia integrale, penso che anche nel gruppo linguistico, non lo chiamo etico, il gruppo linguistico italiano, ma siamo propensi molti per l'autonomia integrale, perché voglio dire, visto i frutti che un'autonomia pressoché integrale ha dato, non vedo perché bisogna dire di no a un'autonomia integrale. Io personalmente non avrei problemi a guardare con simpatia un'autonomia integrale. I poteri centrali dello Stato rimangono in tema di difesa, di polizia, di magistratura, eccetera, quelli rimangono sempre perché su quello ci piove, però un'autonomia integrale all'interno della nostra Costituzione, all'interno del sistema giuridico, dell'ordinamento giuridico, delle norme internazionali, delle norme italiane, i fondamenti non vedo cosa ci sia di male. Viceversa l'autodeterminazione no, l'autodeterminazione oltre che non passare mai rasenta anche, diciamo, delle posizioni che a volte, diciamo, insomma, non vorrei andare troppo oltre, però insomma, ecco, e quindi l'autodeterminazione io non so come mai sia passata una proposta ufficialmente l'autodeterminazione che va a tangere i confini dello Stato. Questo per quanto riguarda l'autodeterminazione. Commissario del governo, anche questo è un altro scivolone, non si è mai visto una provincia senza prefetto. Fin dai tempi dei Romani le province erano i governatori, quindi una provincia senza commissario del governo è nullius, cioè è niente, non può essere. Quindi anche questo non so perché ci sia battuti per accogliere il commissario del governo. La regione, mi sembra che abbiamo parlato della regione, non ha quasi più nessuna competenza, quindi se un domani la regione Trentino Alto Adige non ci fosse più, io non sarei tanto scandalizzato. In fondo vogliono abolire le province in giro per l'Italia, non vedo perché non debbano abolire la regione. In fondo i tedeschi la regione non la volevano nel 1947, non la volevano nel 1957 e credo che non la vogliono anche questa adesso. Quindi diciamo questi punti che si sono mescolati, hanno mescolato il possibile con l'impossibile, hanno partorito questo statuto, questa bozza di statuto terzo che, come dicevi te, dove si va a finire? Non lo so se è tutto inutile, non lo so se è tutto inutile, si vedranno i risultati. Allo stato attuale mi sembra che si è andati molto lontano, perché come dice lui, è vero che lo statuto secondo forse va cambiato, ma una cosa è tenere tutto il pacchetto buono com'è e cambiare singole norme pian pianino, e questo ci sta. Da dentro tutto lo statuto vecchio per portare fuori uno nuovo è come, cioè, tra l'altro da Roma non è che vedono proprio di buon occhio gli altoatesini, cioè la politica altoatesina non è che sia vista proprio come un toccasana, perché loro hanno questo pensiero che qui ci sono i benefici, che i soldi non vengono versati, che bla bla bla bla, quindi andare anche a stuzzicare una cosa, a portare a Roma uno statuto che parla di autodeterminazione, di abolizione del commissario del governo, come è uscito fuori dalla commissione del 33, è una vita nozze per loro, no? Per dire tornate su e tornate fra 10 anni. Io la vedo così, no? Cioè, come si fa ad andare a Roma con una cosa di statuto? È come per dire un prete va dal Papa e dire tu vuoi sposare, cioè, ma che senso ha? Ma quello c'è metà più sempre. Cioè non ha senso, ma è a dire che mi dovete approvare l'autodeterminazione, l'abolizione del commissario del governo, ma Roma ti dice che torna a casa, a piedi. Cioè, giuridicamente non si è piedi. Allora facciamo le cose fatte bene, teniamo il secondo statuto e vogliamo la scuola bilingue, pian pianino facciamo la scuola bilingue. Hanno fatto la LUC, è trilingue, faranno la scuola bilingue, la LUC è trilingue, nessuno si canalizza. Vuole dire, è un esempio palese di come poi pian pianino le cose si possono fare. Io il secondo statuto non l'avrei toccato, avrei preso le competenze primarie della provincia, le avrei accantonate, quelle concorrenti pian pianino, una per una, vediamo un po' dove andare a toccare, bla bla bla bla bla bla. Questo avrei fatto, ma questo è un'opinione personale, non è che voglio dire che il lavoro dei 33 o del forum dei 100 sia stato inutile, per carità, io non mi permetto minimamente di dire una cosa del genere, però se la legge delega provinciale che ha istituito la commissione 33 e il forum dei 100 voleva che all'esito di questi lavori venisse fuori uno statuto unitario, quello che vedo è che è uscito uno statuto, una bozza di statuto e quattro soluzioni di minoranza, quindi non è quello che la legge si prefiggeva. Questo vedo io, e leggo dai giornali che lavoro ancora lontano, perché hanno detto che vogliono nominare 3 tecnici, e che vogliono nominare anche 3 avvocati, e che non so, sono un po' scettico, ma non mi sogno minimamente di andare a dire che il lavoro è stato inutile, perché quantomeno ha toccato il polso alla popolazione, che ci sta, voglio dire. Però una cosa è toccare il polso alla popolazione, una cosa è fare uno statuto che va fatto dalle persone che, diciamo, sappiano dove andare a parare, perché secondo me, insomma, andare a dire vogliamo l'autodeterminazione e sapere già che, insomma, va a cozzare, secondo me non è una mossa lungimirante. Ecco, questo maniaco non l'abbiamo fatto, secondo me. Anzi, c'era proprio, secondo me c'era proprio dissociato, no? Quando c'è stato gli anni di Giugno, lui si era proprio lontanato da queste posizioni. Sì, effettivamente è un termine alquanto discutibile, come avevo detto prima. Cioè, l'obiettivo è che bisogna sempre rimanere nell'arco del legale, cioè si può fare tutto in Italia, però bisogna rimanere nell'arco della Costituzione, delle leggi fondamentali dello Stato, e allora si fa tutto, ok? E su questo andiamo avanti su tutto. Fuori non si può andare, che piaccia o no. Quindi, diciamo, queste cose a mio parere sono abnormi, ok? Per quanto concerne il Consiglio del Governo, io leggo qui proprio la relazione di maggioranza, per quello che pensa Fresca l'altro giorno, è un po', insomma, una deformazione giornalistica, devo cercare le fonti prima di parlare. Quindi... Beh, è un ottimo. Allora, qui io trovo, e chiedo a te che sei esperto, qua dicono, per quanto concerne proprio questo commissariato, interessante questo aspetto, il venir meno del commissario del governo non compromette alcun bene costituzionalmente protetto, come risulta anche dall'esperienza della regione autonoma della Valle d'Aosta, no? Sin dal 1948, quindi qui si dovrebbe copiare fondamentalmente quello che è l'esperienza della Valle d'Aosta. Io non conosco l'esperienza della Valle d'Aosta, però è interessante, insomma, il punto di riferimento. Pare che non ci sia l'esperienza in Valle d'Aosta. Però comunque quello che qui insomma, si penserebbe di fare insomma, di dare questa delega direttamente al Presidente di Giunta, provinciale. Quindi tu non saresti d'accordo? No, diciamo che il Presidente di Giunta provinciale non rappresenta lo Stato, cioè la figura del prefetto e del commissario del governo è una figura che rappresenta lo Stato, no? Cioè fine, come dicevo prima, fin dai tempi di Roma, erano antiche governatori rappresentavano Roma, quindi venivano inviati, rappresentavano Roma. Se la Valle fa parte dell'Italia, un rappresentante dello Stato italiano ci vuole, cioè per fare. Con ciò questa cosa non cozza con l'autonomia integrale, perché l'autonomia integrale, ripeto, può anche essere ben accetta, ma cozza con il venire meno di una rappresentanza statale nella provincia. Secondo me abolire il commissario del governo non si può. Secondo me non passa giù a Roma, poi ripeto, non lo so, però andare a Roma e dire aboliamo Roma, mi sembra, cioè andare giù a Roma e dire aboliamo il rappresentante vostro qua, no? C'è qualcosa che mi urta, mi sembra. Altro punto e poi io penso che passeremo la parola poi agli ospiti, cosa dici tu? Sì, voglio dire una piccola cosa, ma c'è qui circa la scuola, in questa relazione di maggioranza si dice questo, c'è questo passaggio interessante. Inoltre è emersa la consapevolezza, dicono il 33, dell'opportunità a beneficio delle giovani generazioni di godere di una didattica di alta qualità e adeguata agli sviluppi delle scienze educative. Questo significa tutto e niente, nel senso che sì, è giusto migliorare la didattica, ma assolutamente non c'è un riferimento chiaro circa una scuola bilingue o comunque delle sezioni bilingue, cioè, sì, siamo tutti d'accordo, no? Che giustamente una didattica innovativa sia giusta. Comunque io torno a dire che secondo me chi sa più di me è dello stesso avviso. L'articolo attuale, articolo 19, non vieta assolutamente di aggiungere, semmai di togliere. Quindi, sempre restando che non c'è nessuna intenzione di togliere la possibilità di avere la scuola una propria madrelingua, eccetera, aggiungere una sezione bilingue, o aggiungere la possibilità di studiare anche in altre lingue, sempre che ci sia l'interesse da parte dei genitori, non è assolutamente una lesione di un diritto costituzionalmente sancito. Bene, Giancarlo, ti passerei la parola. Vi do una buona notizia, il mio intervento sarà brevissimo, perché vorrei, se sono sicuro che voi concorderete con me, dare la parola a Pinuccia di Cesare e poi a tutti voi se volete intervenire. Solo due piccole chiose. Tempo fa io ho intervistato, che è la mia occupazione principale, alcune persone, tra cui due senatori, uno valdostano e l'altro siciliano. Sono state un po' faticose come interviste, perché costoro erano abbastanza noiosi, forse anche le mie domande lo erano. Comunque, arriviamo al dunque. I parlamentari, comunque i valdostani, che rappresentano gli altri valdostani nelle istituzioni nazionali, sono convinti che qui siamo stati più bravi, o sono stati più bravi i nostri nonni, e tutto quanto, anche i nostri genitori, perché l'impero austro-ungarico era molto più maturo rispetto alle monarchie francesi, per cui insomma se la Val d'Aosta è figlia di quella storia, l'attuale del Sud, Tirolo e Trentino per altri versi sono figli di un'altra storia, quindi c'è un sussiego e anche un imbarazzo proprio storiografico che bisognerà prima o poi approfondire, e spero che lo faremo. Il senatore siciliano, peraltro simpatico, mi ha detto: sa, il problema è che anche noi, certo, siamo una regione autonoma, però noi siamo stati sfortunati. Allora, io credo io ho un grande rispetto per una terra importante e martoriata come la Sicilia, i miei più cari amici hanno più tempo di me, ci vanno in vacanza, si trovano bene, però sostenere che da parte di un politico esperto che l'autonomia in Sicilia è diversa dalla nostra, leggi, lì si ruba, per non dire altro, si corrompe, si ammazza, eccetera, e tutto questo attribuito questo alla sfortuna mi sembra una bizzarria che forse andrebbe corretta. Ultima cosa, la materia, come avrete capito e come sapete, credo anche sulla vostra pelle, di persone che ragionano, che commentano, eccetera, è talmente scivolosa che una persona che credo tutti noi stimiamo, la mia collega Lili Gruber, tempo fa, nella sua rubrica, scusate se cito un settimanale che mi è caro, nella sua rubrica che da qualche mese tiene su 7 del Corriere, alla domanda su come comportarsi, sul modo in cui lei valuta la convivenza in alto a Gesù, te l'ha risposto: ma io penso che dovremmo chiamare questa terra, che è la terra di Lilli, come sapete, Alto Adige se siamo italiani e Zutiron se siamo di Montesmara tedesca, punto. Voi potete immaginare che cosa ci sia stato dietro, che travaglio ci sia stato dietro per una giornalista brava, criticabile come tutti, ma abbastanza intensa nel suo lavoro e fuori dal coro, nell'aver dato sul settimanale del primo quotidiano italiano una risposta così anodina, così cauta. Quindi attenzione, eccetera. È vero, a Roma parlare dell'autonomia in Alto Adige non significa sollevare il vespaio per cui non paghiamo le tasse, se ci si rivolge in italiano in Val Venosta o nell'Alta Fusteria i cattivoni fanno finta di non capire l'italiano e viceversa. Ci sono, se si butta una carta per terra, arrivano 10 soldati che intervengono con pistole laser e altre cose. Non siamo in un posto di fantascienza, siamo in un posto di persone per bene che si confrontano, che hanno il coraggio di, come in questo caso, anche di scrivere, non solo di dire delle cose importanti. L'ultima cosa che mi sento di dire anche ai rappresentanti delle grandi istituzioni culturali, sia comunali che della provincia, è di non lasciar cadere, e sono sicuro che non lo faranno, le suggestioni, gli stimoli che stanno nascendo grazie ai miei colleghi di tavolo, forse un pochino anche per le cose che sto dicendo io questa sera. Non lasciate le cadere, continuate a coltivarle e a seguirle, ve ne prego. E sapete perché? Uno dei motivi ve lo spiega molto meglio di me. Prego. Io, di fronte all'intensità dei vostri argomenti, ho poco da aggiungere. A me sembrerebbe molto opportuno che si aprisse un minimo di dibattito tra le numerose persone che si sente, che ci sentono e che sono qui. Dico solo una cosa: oggi ho ascoltato, come tutti i giorni, alle ore 14 il TG regionale, quello sulla televisione locale Rai 3, no? E c'è un servizio a Trento, qualcuno di voi l'avrà visto sicuramente, era oggi alle ore 14, un servizio sulla autonomia, e il giornalista trentino della sede Rai di Trento chiedeva a 3 o 4 persone non di 18 anni ma sui 40, dai 3 40 e 50 55 anni: ma cos'è per lei l'autonomia? quello lì si passa. Nessuno di voi l'ha visto? Chi l'ha visto? Chi l'ha sentito? Ecco, c'è una persona là che... Ed erano sconcertati, non sapevano cosa rispondere. Ma l'autonomia? Ma poi anche con... Ma anche poi con un disinteresse, anche con una sorta di... quasi di disprezzo, come per dire, ma basta, parliamo di donne, non so, di qualcos'altro. Ecco, allora, perché dico questo? Dico questo perché il fatto di aver pubblicato questo libro, ritengo che sia, che aver pubblicato questo libro sia veramente utile, se non altro per portare al dibattito, come dire, quotidiano, corrente, di chi vorrà leggere. Io spero che lo vorrà leggere qualche insegnante, lo vorrà discutere con qualche classe, con qualche seconda, terza media, perché non è il linguaggio non è difficile, l'importante è saper spiegare i nodi, i passaggi e, come dire, coinvolgere già i giovani su queste questioni, di modo che persone di 40-50 anni, le tre, non so se erano tre o quattro le persone che sono state intervistate, non rispondano in quella maniera desolante, non so usare un'altra parola, che ho sentito oggi. Cioè, penso che la consapevolezza che c'è in quelli di Bolzano non sia molto diversa, non sia né maggiore, penso che più o meno siamo lì. Perciò, come concludo? Grazie a Franco di averci dato l'opportunità di aver fatto questo libro e esprimo un auspicio che qualcuno lo legga e possibilmente qualcuno che riesca anche a farlo conoscere ai giovani, agli studenti, insomma. E grazie a voi. E poi se qualcuno vuol fare qualche domanda è possibile. No, volevo fare un primo intervento proprio sul discorso dell'autonomia delle altre regioni, no? Perché in Italia le regioni autonome sono 5, no? La Sardegna, il Friuli Venezia Giulia, la Val d'Aosta, la Sicilia e le province di Trento e Bolzano. Tutte quattro, diciamo, hanno un'autonomia anche finanziaria notevole. Va sfattato un luogo comune, adesso io non è che ho fatto delle perizie sui bilanci della provincia né sui bilanci dello Stato, però leggendo le interviste del senatore Palermo ho capito che non è neanche vero quello che si dice in giro, no? Cioè che l'Alto Adige fa presto con tutti i soldi che prende. Certo. Cioè io quello che ho capito è che non è vero che l'Alto Adige prende i soldi, io quello che ho capito è che l'Alto Adige, se vogliamo, non ne dà, nel senso che comunque trattiene l'80-90% del gettito. Però è anche vero che paga tutto, e paga l'insegnante, paga i dipendenti provinciali, paga gli ospedalieri, e paga qua e paga là, è chiaro che i soldi ci vogliono. Ho letto anche che è diventato da un paio d'anni pagatore netto la provincia di Bolzano, cioè da Roma più di quello che prende. Quindi anche questo non è vero, cioè non è vero che la provincia prende soldi da Roma. In verità, se io ripeto, non ho fatto un campo dove non è che mi vado neanche a impelagare, però leggendo sull'Espresso, l'Europea, sulle cose, ho letto appunto che la provincia di Bolzano è diventata pagatore netto, cioè dà di più di quello che prende. E come ho scritto nell'introduzione, non ha fatto neanche mai mancare il sostegno a fronte di gravi calamità, perché anche la provincia di Bolzano, che sente in giro e mantengono tutto loro, ha stanziato parecchi milioni di euro insieme a Trentino, a Leoreggio, anche a fronte dei terremoti, eccetera. Quindi non è neanche vero questa cosa, ma l'Istat è così, tenete tutto per voi, bla bla bla bla bla. Quindi è proprio, diciamo, l'amministrazione che a questo punto fa ricadere questo gettito su tutta la popolazione altoatesina. Quindi ecco, anche questo vuol dire, non è vero che sono tutti bravi con i soldi di Roma, questo credo che vada detto, insomma. Ma da questo punto di vista non c'è dubbio, ci sono la situazione di questa guida dell'autonomia è esattamente questa. Ciò non toglie che vi siano una serie di luoghi comuni, le persone colte direbbero, aggiornate direbbero fake news, bugie, per cui molti a sud di Arco, a sud di, insomma, quando si entra già nella, con un po' oltre il Trentino, un po' a sopra del Trentino, si pensa che in Alto Adige sono tutti in attesa che arrivino degli autobotti pieni di oro liquido che viene poi distribuito alla popolazione, magari quelli più yes man o yes woman ne riceveranno di più, i dissidenti un po' di meno, però andate in fine. Queste sono cose offensive, gravissime, che una parte, che alcune parti politiche continuano a, ad alimentare e a diffondere, e sono delle cose aberranti, perché questo è un momento in cui sui grandi temi, non soltanto etici, non parliamo poi di questa fase tremenda per quanto riguarda le violenze sessuali e altre cose, e anche la stampa ha avuto giustamente, ha ricevuto una serie di, una parte della stampa ha ricevuto una serie di critiche, queste sono delle cose terribili, ma anche il fatto che si attribuiscano a dei territori delle cose all'opposto della verità, il passo successivo è che arrivano qui e ci prendono, cioè, ci prendono i documenti e il denaro dal taschino e poi scappano, insomma, per non parlare poi di discorsi dell'accoglienza, della difficoltà, cioè, ma carne a fuoco ce n'è tantissima, vi prego, sarete sicuramente, non ci vuole poi tantissimo, più bravi di me, a mettere a voi la carne a fuoco adesso. Quanta carne? Sì, sì. Non so chi ha chi. La signora, grazie. Grazie, vi chiedo scusa se per caso dico qualcosa anch'io che non è preciso e corretto, perché come l'avvocato Baldessarelli non ho preso appunti, non avevo portato né carta né penna e quindi non mi sono annotato tutte le cose, ricordarsi che le dimentichi o che le abbia capite male. E comunque una cosa che non ho capito è, si è parlato del terzo statuto come se il terzo statuto fosse già stato scritto. No. Non è stato scritto assolutamente, si è parlato delle conclusioni del convento come se fossero la base dovuta del terzo statuto. Cerchiamo di essere precisi, perché mi è sembrato che non siamo stati molto precisi, almeno, o perlomeno io non ho capito abbastanza bene. No. Perché il convento ha messo insieme delle persone della società civile, della politica o di altri gruppi della società per pensare a che cosa la società sudtirolese o alta tesina, come la vuole chiamare la dottoressa Gruber, sente le necessità di cambiare. E questo è uscito dal convento. Quindi quando si parla di autodeterminazione, o quando il convento parla di autodeterminazione, quando parla di abolizione del commissario del governo, quando dice che non si deve cambiare l'articolo 19, queste sono delle conclusioni uscite dalla Commissione dei 33 che era stata fondata in un determinato modo. E questa è una cosa, chiedo scusa se spero di non essere troppo lungo. Queste conclusioni provengono da un certo modo nel quale è stato formato il convento, è uscito, sono usciti i protagonisti del convento, che praticamente sono o sono stati nella maggior parte dei rappresentanti di un gruppo linguistico, di una certa parte del gruppo linguistico, e qui parlo del gruppo linguistico tedesco, con pochissima partecipazione del gruppo italiano, con una spinta immediata fin dall'inizio, perché non so quanti di voi abbiano partecipato alle riunioni che hanno portato prima alla commissione dei 100 eccetera. Io ci sono stato un paio di volte quando venivano chieste quelle dei 100 No, alle prime. Alle prime. Quando veniva chiesto di dare dei temi che poi, che poi sarebbero stati trattati dalle commissioni, e si formava una fila lunga di persone che andavano a scrivere le cose, il primo tema è stato sempre autodeterminazione. Il primo tema. E altri temi del genere. Perché? Perché c'era la preparazione da parte di questi rappresentanti e la determinazione di mettere all'inizio questo tema. Quindi il fatto che poi la commissione, anzi la commissione dei 33, presieduta mi pare da Turba, no, non era presieduta da Turba, da Turba c'era, ti ha fatto sì. E comunque c'era anche lui, e praticamente ha imposto il fatto dell'autodeterminazione, di parlare dell'autodeterminazione, di parlare di altre cose. Ma questa è la volontà di una parte della popolazione. Io spero veramente che la politica, perché il cambiamento di uno statuto non può essere fatto semplicemente prendendo delle proposte di un certo numero di persone che poi oltretutto non sono state condivise da altre persone, minoranze che erano lì, perché ci sono state tre proposte di minoranza. Cinque addirittura, sono l'ho detto che sono ignorante. Una di maggioranza e quattro di minoranza. Quattro di minoranza, cinque. È chiaro che queste sono idee che ci sono e che dovranno essere prese in considerazione, ma chi dovrà poi fare un lavoro, e fare un lavoro per migliorare senz'altro questa già ottima questa ottima soluzione dell'autonomia, questo statuto, secondo statuto d'autonomia che noi abbiamo, che ci viene riconosciuto da tutti come ottimo statuto d'autonomia, che però in questa provincia, che è costituita da isole, noi siamo una provincia di 116 comuni, di cui 5 mi pare sono di più di 15.000 abitanti, 10-15.000 abitanti, e gli altri 116, facciamo che più di 100 comuni sono piccoli comuni dispersi nella regione, nelle valli, con pochissimi abitanti. Queste isole sono completamente diverse l'una dall'altra, o le une dalle altre, non si conoscono. Noi italiani, noi di lingua italiana che abitiamo qui, normalmente non conosciamo assolutamente niente, o se conosciamo qualcosa ne conosciamo una piccolissima parte di quella che è non l'altra isola, ma l'altro continente del Sipiro. E su questo e per questo noi facciamo enormi errori di valutazione, perché non ci rendiamo conto che si dovrebbero fare le cose in modo diverso. Cioè noi dovremmo cercare di integrarci, loro dovrebbero cercare a loro volta di integrarci. Il secondo statuto d'autonomia, che senz'altro è ottimo da un punto di vista politico, perché impedisce la lotta armata, se vogliamo, armata anche a livello di discussioni troppo intense, non ha fatto assolutamente nulla per passare da quella che si potrebbe chiamare coesistenza, se fossimo ancora al tempo della guerra fredda, a quella che era convivenza. Alla convivenza non siamo arrivati, e c'è una buona parte di questa provincia che la convivenza non la vuole. E la dimostrazione è proprio questa. Quando lei dice, avvocato Baldessarelli, che è assurdo parlare di autodeterminazione. No, io dico che assurdo. Non sta in piedi, ma lo vada a dire. Io ho avuto grosse discussioni con delle persone che facevano parte del primo nucleo di quelli che hanno partecipato al convento di lingua tedesca. E mi dicevano che sì, si doveva avere l'autodeterminazione, E io che sono nato qui, che sono cresciuto qui, che sono stato lontano per 40 anni per lavoro e poi, dato che amo questa terra, ci sono tornato, io non avrei avuto diritto di, secondo loro non avrei diritto di votare. Gli italiani non dovrebbero votare secondo loro. Sono troppo lungo e lascio. Comunque, per cortesia, cerchiamo di pensare, quando parliamo di determinate cose, a dove siamo effettivamente, perché noi italiani tendiamo a pensare che l'Alto Adige sia Bolzano oppure Adiardanto, Merano o Bressanone. Ma chi vive fuori da queste realtà e non è nell'isola italiana si rende conto che l'Alto Adige è diverso. Grazie per l'intervento. Posso dire una cosa? Innanzitutto penso che la conoscenza reciproca sia sempre auspicabile, sia un sinonimo di apertura. Effettivamente questo è un territorio complesso, perché la stessa geografia non lo agevola nelle sue comunicazioni e nei contatti. E la cosa che mi preme adesso anche così invitarvi a una brevità, un po' una sintesi, perché purtroppo non abbiamo tantissimo tempo a disposizione e quindi siamo un po' ostaggi di quelli che sono gli aspetti anche logistici di una serata che fra un po' si voglia la conclusione. Passerò il microfono ad altri ospiti. Voglio ringraziarla, perché di solito è contrario, no? Quindi questo mi gratifica ancora di più, perché vuol dire che di solito finiscono le conferenze, la gente non vedeva di andare via e ci sono dei tempi morti. Invece stavolta vedo addirittura che ci dovete sollecitare, mi gratifica molto, anche perché finiremo a mezzanotte, quindi diciamo. Vi metto un po' sull'avviso, purtroppo, che avevamo anche noi tutto degli orari da. C'era qualche Prima di tutto volevo dire una bella cosa, ne abbiamo sentite tante di volte. Io credo che i due terzi di quello che ho sentito sull'Alto Adige è esagerato e non risponde. Io conosco l'Alto Adige anche nei paesetti, dall'altra parte dei tedeschi, e così uno contro l'altro non c'è. Comunque, una bella roba che metto davanti. Tempo fa, non molto tempo fa, in provincia è stato creato un nuovo posto di lavoro per l'autonomia. Il signore al quale è stato dato questo compito, su un giornale tedesco, l'hanno messo fotografato davanti, e lui ha dichiarato: cercherò di rendere l'autonomia più simpatica. Adesso ho scritto, che ho sentito che voi, mamma mia, sta autonomia che la voglio. Lui tenta di renderla più simpatica. Lo so che a Roma dicono due soldi in più e tutte queste storie, no? Forse qualcuno riesce a renderla un po' più simpatica. Adesso volevo dire un attimo. Ho scritto, questo sì, lo dico, ho scritto sull'Alto Adige 3 giorni fa un articolo, proprio non sapevo di questa riunione, non sapevo niente, proprio ancora un po' sulla convivenza, ma che la convivenza potrebbe incominciare veramente, e un po' è incominciata, ma non abbastanza, dai bambini piccoli a scuola, dai bambini piccoli all'asilo. Stare lì a discutere e a litigare se possono fare il bilinguismo oppure no, se possono fare, facciamo il tedesco all'asilo, non lo facciamo. Ecco, i bambini dovrebbero ricevere anche a casa, già prima, la simpatia per questi nuovi amici, che non sono altri, fra virgolette, magari li trovano in cortile, non sono altri, sono come noi. Bisognerebbe far proprio che i bambini assumessero, e non come in qualche scuola ancora a Bolzano si fa le pause separate, così non si dicono buongiorno, così non si dicono buongiorno, lasciamoli giocare assieme. Nelle famiglie diamo questa simpatia per gli altri, questo forse incomincerebbe dal basso a creare una convivenza che è già molto migliorata, ma non è ancora a livello. E non è che noi italiani siamo peggio dei tedeschi, no, e qui, come si dice, è qui distribuito, grazie. Equivalente. Ecco, sì. Sì, buonasera Santa, volevo congratularmi ancora per il libro, perché è estremamente fruibile. Io l'ho utilizzato per... sono riuscita a inserirlo nella mia tesi di laurea, per cui io proprio ho trattato un attimo questo problema. Volevo essere brevissima, insomma, e io ho citato spesso proprio della convenzione. E si è partiti con questo grande entusiasmo. Il professor Palermo parlava proprio del fatto che la riforma, cioè il metodo doveva precedere il merito, era questa già una novità, insomma. E, però poi si è visto un po' come è andata a finire, c'erano delle grandi aspettative, tra l'altro ci sono dei precedenti, anche le proposte per la riforma degli statuti della Valle d'Aosta, eccetera, ci sono stati dei precedenti, però un pochino si sono, diciamo, renati tutti. In questo caso specifico forse c'è stato anche poi l'aggravante in un certo senso proprio dei temi del merito, come abbiamo visto, insomma, come ho sentito. Quindi volevo sapere, lei è dell'idea che un approccio simile, cioè simile modus operandi, quello della democrazia partecipativa, sia comunque valido per affrontare temi così delicati, oppure è meglio rifarsi a metodi più tradizionali? E oltre a questo, se si torna, diciamo, ad un approccio più tradizionale, c'è realmente la possibilità di replicare un successo così, diciamo, avvalorato come secondo statuto? Cioè la politica è veramente in grado di ripetersi, soprattutto poi con le incombenze e con le problematiche che la politica si trova ad affrontare quotidianamente? Allora, cerco di rispondere a tutte, guarda, anche, cerco di rispondere prima a tutte e tre contemporaneamente, così facciamo una cosa veloce, così facciamo contenta anche la maggioranza di casa. Allora, per quanto riguarda il terzo statuto, io non mi sono spiegato male, è ovvio che il terzo statuto non c'è, nel senso che avrò usato dei termini impropri, il terzo statuto non c'è e ce ne vuole prima che arriverà, quindi diciamo questo. Diciamo che la legge delega della provincia voleva una bozza di statuto, ne sono uscite 5, quindi questo mi dà da pensare che il percorso sia in salita. L'introduzione di questi principi dell'autodeterminazione e della coalizione commissaria del governo rende difficile poi il lavoro del Consiglio provinciale, perché deve eliminare queste parti, perché lì i politici sanno benissimo che, come dicevo prima, sono delle abnormità nel panorama giuridico italiano. Quindi non dico che sia stato un lavoro inutile, però diciamo è un lavoro che va molto tarato, e adesso il Consiglio Provinciale dovranno dare un colpo al cerchio e un colpo alla botte, perché se la maggioranza vuole questo principio dovranno fare in modo di scontentare la maggioranza. E con questo mi ricollego all'altro discorso della signora. La democrazia partecipata è sacrosanta, i referendum, diciamo, in Italia sono lo strumento democratico per eccellenza, quindi i referendum sono sacri, no? Però è anche vero, mi sembra Panno, qualcuno l'ha detto, che delle cose propriamente tecniche vanno fatte dai tecnici, nel senso che io non mi metto a fare dei medicinali, no? Cioè non lo faccio, sono nel mio mestiere, quindi fare uno statuto è materia di diritto, adesso va benissimo sentire la base, ma fare uno statuto è una materia giuridica, quindi ci vogliono dei tecnici che mi sembra che quelli della Commissione 33, gli unici tecnici, non li avevano considerati, perché mi sembra che ce n'erano due o tre di avvocati, quindi, professori, non so adesso, comunque non li hanno considerati. Quello che dicevo io è che il secondo statuto, lo diceva la signora, adesso non so che esperienza ha avuto lei, le merende separate, eccetera. Io ho tantissimi amici tedeschi, ciò. Il mio fratello ha fatto le scuole tedesche, nessuno ha mai sofferto, dico la verità, non hanno avuto dei disturbi, cioè e i miei amici italiani spesso e volentieri parteggiano per i tedeschi, quindi secondo me non c'è questo disagio che, diciamo, la signora coglie. E in questa provincia il disagio degli italiani io non l'ho mai concepito, l'inviterei ad andare a vivere altrove se sento il disagio qua, perché altrove sì che c'è il disagio. E quindi non riesco proprio a comprenderlo, mi dispiace più forte di me, ma io il disagio degli italiani comincio non lo capisco. Io tutte le volte che mi rapporto con i tedeschi non ho mai avuto problemi, non ho mai avuto dei rancori, non ho mai avuto, diciamo, dei trattamenti di disvalore, e anzi direi quasi il contrario, quindi non riesco proprio a capire dove ci sia questo malcontento. Tornando al secondo statuto e poi concludo, Io non dico che il terzo statuto deve praticamente, è inutile, dico soltanto che il secondo statuto, al tempo dei Romani c'era il pretore che faceva un editto, questo editto il pretore successivo lo teneva e lo modificava nella parte che non andava, quello dopo lo modificava ancora, dopo 5 secoli è avuto un capolavoro che ha fatto il fondamento al diritto di tutti gli ordinamenti europei. Lo statuto, secondo me, se si fa il terzo, il secondo doveva finire, sarebbe posto il problema a qualcuno. Cioè, quando passa il terzo statuto, il secondo dove va? No? Io me lo sono posto sul problema. Se uno manda giù a Roma il terzo, il secondo, cioè, qui si rischia di rimanere con cieli del mare. Eh? Dunque, io prometto che sono assolutamente d'accordo con quanto ha detto l'avvocato di Saverio in tutte quante le sue affermazioni che ha fatto. Perché per un semplice motivo, io credo che in Alto Adige ci sia assoluta convivenza in tutti quanti i generi. E c'è un altro discorso ancora da fare. Chi parla entrambe le lingue sono i tedeschi e non gli italiani. E se si va in altra Valle Nostra, oppure in altra Busteria, o da qualsiasi altra parte, in altra Val di Sacro, nei piccoli paesi in queste valli, la maggioranza delle persone, quasi tutte le persone, parlano l'italiano e anche il tedesco. Quello che non siamo in grado di fare noi, perché probabilmente abbiamo una mentalità che dice: ah, perché dovremmo imparare il tedesco se non siamo in Italia? Ecco, io parlo da questo presupposto. I problemi della nostra autonomia derivano dal fatto che esiste un estremismo di destra tedesco e un estremismo di destra italiana che si combattono e che creano i problemi per tutti quanti la nostra situazione. Questo è secondo me il discorso fondamentale. Io ho una nipotina di 4 anni che vive in un paesino a Gargazzone. Mio figlio è italiano come me, la moglie è siciliana e la bambina va all'asilo tedesco di Gargazzone. Sì. E quando parla a casa dice: mamma, dammi le sue. Va bene? No. E quindi io sono convinto che il secondo statuto possa essere mantenuto integralmente. Io ho partecipato alle assemblee che erano state indette a suo tempo qualche anno fa, di cui parlava anche il signor Riccio, e sono stato un fallimento, come è un fallimento e come sono assurde le proposte che stanno uscendo con questa commissione. Quindi io ho chiuso e spero che non facciano niente, che si mettano calmi e tranquilli tutti. Io vivo a Parma da 30 anni, quindi diciamo ho il polso del forestiero, no? Cioè quando uno torna qua, a differenza di una volta che, come diceva la signora, si diceva guardi in Italia, parlo in tedesco, parlo in italiano, rispondo in tedesco, vi garantisco che da 10 anni a questa parte tutti i miei amici italiani che vengono qua, tappeti rossi. Okay, quindi proprio lo capto, lo sento proprio, cioè non ce n'è uno che parli male della provincia di Bolzano dal punto di vista dell'ospitalità, del turismo, del fatto che fa. Aggiungo che io ho degli amici tedeschi che sgridano i figli e le figlie perché non vogliono imparare bene, cioè perché non riescono a imparare bene l'italiano. Quindi i tempi sono cambiati, c'è poco da fare, ma sono cambiati radicalmente rispetto a 30 anni fa. Quindi io questo discorso delle merende separate, magari ci sarà lo stesso qualcuno che ancora vive nel mondo dei sogni, eccetera, ma non è così. Quindi l'autonomia che c'è qua è un tesoro che io suggerisco di tenere sostretto. Con ciò non voglio assolutamente dire che il lavoro dei 30 test è stato inutile, mi permetto minimamente di dirlo. Dico solo che da come è citato il risultato mi sembra che insomma non siano state rispettate le aspettative, dico solo questo, perché sarebbe anche ingeneroso dire che è stato un lavoro inutile, no? Cioè gente che insomma se deve essere disponibile, conferenze la sera, bla bla bla, eccetera, quindi è ingeneroso. Però dico soltanto che secondo me è stato diciamo un risultato che è andato non conformemente alle aspettative. E aggiungo che lo statuto insomma va fatto giustamente dai tecnici, in fondo voglio dire, i politici sono pagati anche per questo, voglio dire, possono fare anche lo statuto. Sempre che sia meglio del secondo, se no è meglio tenersi il secondo. così, siamo pochi che lo viviamo così. E sapete che il quartiere è stato raso al suolo, non c'è più nessun ricordo, non c'è più. Hanno fatto una casa museo, per modo di dire, ma hanno fatto quello che volevano. Qual è il quartiere, mi perdoni? Fa, lei un giornalista, lo sapeva. E Semirurali, Don Bosco, scomparso. Hanno creato un grande giardino, non c'era l'opportunità di imparare tedesco. Noi a scuola, cioè i miei ingegneri volevano inserirmi nella scuola italiana, non è tedesca, non c'era la possibilità perché i genitori parlavano tutti e due italiano. Quello che sta succedendo anche adesso, perché è venuta l'altro giorno da un dirigente e ha detto: voi italiani, ai genitori italiani dovete rispondere in tedesco. Dopo ha detto che era una bufala, ma è la verità questa. Se voi volete iscrivere i vostri figli alla scuola tedesca, dovete voi insegnanti parlare in tedesco ai genitori italiani. Lo so, è stato tutto aspetta un attimo. Poi il nostro disagio è questo: io non ho nessun disagio, so appena appena, so meglio l'inglese che il tedesco, perché non ho avuto la possibilità, come chi è di madrelingua tedesca ha la possibilità di imparare l'italiano, perché parlano l'italiano, mentre noi di madrelingua italiana non parliamo, non possiamo imparare il tedesco perché parlano questo dialetto. I nostri figli fanno più difficoltà, affrontiamo questo disagio, la realtà è questa. Quindi abbiamo meno opportunità, i nostri figli hanno meno opportunità di chi è di madrelingua tedesca, e non si prende mai atto di questo. E poi io sono contro i muri, perché già ai tempi degli anni 70 facevano i muri, ancora adesso ci sono i muri, i cortili diversi, la scuola separata, eccetera. Come fanno i nostri figli a imparare il tedesco? Se impara, se ci si frequenta. Se io vado in Inghilterra per studiare, faccio una full immersione. Ma se qui non c'è la possibilità di fare full immersione, non posso imparare. Guardi, se c'è una cosa che qua funziona. Quindi io sento che c'è come una discriminazione. Ma non è assolutamente vero, guardi, ci sono un sacco di associazioni che insegnano il tedesco qua, ma le aggiungo che mio figlio che vive a Parma è andato a Innsbruck con l'UPA. Quindi non è successo, dov'è la difficoltà di imparare? Cioè uno va nel ZB, al Piccadilly, al Lupa, cioè se uno vuole imparare il tedesco lo fa. Se io non sono se uno vuole imparare il tedesco lo fa. La posso dire alla Lione di cui parla lui, io ho insegnato 18 anni in tedesco, avevo tanti scolari bravi. Grazie a lei, mi fa che dico 18 anni, mi viene a dire che non fa nulla. Allora io ho lavorato per niente di Mi concordo con la definizione che la nostra autonomia è un tesoro, perché 5 miliardi di bilancio all'anno diviso 500.000 fa 10.000 euro a testa all'anno. La città di Bolzano non è più in nessuna parte, non abbiamo circolazione, non abbiamo niente, siamo discriminati e soltanto, non vogliamo guardare la realtà. Vabbè, ognuno di noi non la pensa come vuole, non che sia così. Faccia via il punto da provvedere. No, mi diceva della poca partecipazione degli italiani a giudicare la nostra assemblea, mi viene quasi a pensare che ormai ci sia tutta questa partecipazione oggi, a differenza di quando è nata la convinzione, che leggevo che la partecipazione italiana è un po' scarsa. La partecipazione italiana alla vita politica ormai è cronica, no? A livello nazionale si vede anche dall'astensionismo, cioè non si sa più dove andare a parare, non si sa più chi votare, ma questo è malinconico dirlo, ma riguarda un po' tutti, credo, no? Gente che ha votato per tutti i partiti dell'arco costituzionale, quindi voglio dire, lì, non so, è disaffezione. Io direi che possiamo avviarci direttamente alla conclusione. È stata una serata molto vivace e quindi, nel rispetto delle opinioni, delle informazioni che vengono date, vi invito riuscito anche ad approfondire i temi della biblioteca a questa missione fondamentale, quella di offrire sempre anche campane diverse.